24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Oggi gradirei dare un papà, una mamma, gli zii, i nipoti e tutto il resto al famoso Porcellum. Devo dire che io ho messo a disposizione la penna, ma scriverla quale legge sia stati in tanti, da una parte e dall'altra dell'emiciclo. Venne l'iniziativa da un ricatto, non facciamo i nomi e i cognomi, ma la richiesta fu di Marco Follini e dell'UDC, che disse che non avrebbe mai votato il quarto passaggio della riforma costituzionale del 2005. Noi non la votiamo se voi non modificate in senso proporzionale la legge. Fini volle la cosiddetta lista bloccata. Chi volle il premio di maggioranza senza limite fu il presidente Berlusconi, però il premio doveva essere uguale sia alla Camera che al Senato e che piaccia o non piaccia avrebbe garantito la governabilità. Chi tolse il premio a livello nazionale e lo tradusse a livello regionale mettendo in condizioni questo Senato di non garantire una maggioranza? L'allora presidente della Repubblica. Questa è la storia. Questa appunto è la storia, buongiorno, raccontata da Calderoli, l'estensore materiale del Porcellum. Il 3 dicembre finalmente la Corte Costituzionale ci dirà se il Porcellum è costituzionale oppure no, soprattutto se il potere di eleggere i propri rappresentanti tornerà ai cittadini. Al telefono abbiamo il professor Arturo Parisi, buongiorno, padre del bipolarismo italiano, ispiratore dell'Ulivo di Romano Prodi e coscienza critica del PD. Questa la storia è andata proprio così, professore? Sì, direi proprio così. Quindi fa effetto. Naturalmente manca l'altro pezzo, perché ha parlato di tutti e due gli schieramenti, ma proprio così. Quindi la legge, come dice Calderoli, diciamo, si può fare in 3 mesi, è stata fatta in 3 mesi, il Porcellum è stato fatto in 3 mesi. Le leggi molto meno. Ah, meno ancora? Molto meno, perché di fatto poi il voto che conta è il voto della prima Camera, in questo caso era la Camera dei Deputati, la Camera nella quale io sedevo, quindi certo. Ne sono stato testimone diretto, purtroppo. Purtroppo. E tutto avvenne in pochissimi giorni, in poche decine di giorni, cioè 20 giorni se no. Quindi, insomma, se si vuole le leggi si fanno rapidissimamente. Assolutamente. Ecco, e quindi se si parla di legge elettorale da un tempo infinito e non si fa, vuol dire che non si vuole e c'è una grande menzogna da parte di tutti sotto. Perfettamente, tanto è vero che la mia obiezione al momento, quella più cocente per me, è che se un governo avesse pensato di mettere come, di assumere come suo obiettivo l'approvazione della legge, questo tema doveva essere verificato previamente, certo, in fase di costituzione del governo. Ecco. Non semplicemente assumere come impegno quello di discutere della legge. Ecco, professor Parisi, però Napolitano per la sua rielezione ha chiesto l'impegno formale ai partiti di fare almeno la legge elettorale. Tutti l'hanno votato praticamente all'unanimità e poi non capita niente. Beh, c'è anche lì un'altra bella contraddizione. Beh, diciamo così, smemoratezza, perché non possiamo dimenticare che Napolitano ha fatto mettere a verbale di aver fatto appello, credo 18 volte, l'anno scorso, non si tratta di un millennio fa, l'anno scorso, ai partiti di allungare il passo e di provvedere all'impegno che avevano preso solennemente dopo la bocciatura da parte della Corte del referendum, ahimè, anche in questo caso lo dico con sofferenza, per il quale avevano raccolto 1.700.000 firme, ancorché depositate solo 1.200.000 e raccolte in un mese. E quindi 1.700.000 firme in un mese non servono a niente. Non servono a nulla. Cioè la voce della gente non interessa al palazzo. Assolutamente, perché giustamente ad ognuno interessa innanzitutto il suo, e poiché gli interessati e interessanti sono innanzitutto i capi partito, evidentemente i capi partito hanno delle urgenze, lo dico perfino con comprensione, che sono diverse da quelle dell'uomo comune. Senta, quindi un paese di Pulcinella sostanzialmente, perché non c'è nessuna possibilità di intervenire, di dire qualcosa che abbia senso. Beh, Pulcinella se li prendiamo sulla parola, però se guardiamo, come dire, agli obiettivi sono persone serissime. Ah, certo. Nel senso che quello vogliono. Ottengono quello che non dichiarano. Io intanto ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666. Mario Secchi, hai una domanda da fare al professor Parisi? Sì, buongiorno Arturo, come stai? Bene, senti. L'anno scorso fummo dalla stessa parte. Lo so. Per il referendum. È un tema caldo. Ma poniamo che trovino un accordo. Secondo te su quale formula trovano eventualmente una mediazione? Cioè come votano i cittadini italiani se si cambia? No, si cambia che l'accordo deve essere... Ma l'accordo deve essere dei partiti prima. Beh, certo. Quindi bisogna vedere quale accordo. Ma tu cosa pensi? L'accordo... Quello più facilmente trovabile è quello a ribasso, cioè quello che contemporaneamente si avvicina di più, ritorna più possibile verso il proporzionale in modo palese o nascosto e allo stesso tempo difende le liste bloccate. Ecco, però Rienzi... Quindi, dato questo qua possiamo anche immaginare cosa possa succedere. Cosa può succedere? I cittadini... Da questo, come dire, subiscono come al solito, in questo caso reagendo innanzitutto col modo classico con cui si reagisce a queste prepotenze in questa fase della storia, nella quale le appartenenze non possono essere date più per scontate, tenendosi lontani dai seggi e premiando le formazioni volta a volta estremiste, populiste per quelli che vanno ai seggi. D'altra parte anche l'ultimo messaggio che ci è arrivato dal Trentino Alto Adige ci dice che perfino in non va più nessuno a votare. Esatto, 10 punti. Ecco, è così tanto tempo che si parla della legge elettorale, lo stiamo dicendo, che ogni tanto davvero sembra un sogno. I sogni sono desideri. Nel giro di un anno si è detto: l'accordo sulla legge elettorale è possibile. L'accordo sulla legge elettorale è vicino. L'accordo sulla legge elettorale sta per essere raggiunto. L'accordo sulla legge elettorale? Anche stasera. L'accordo sulla legge elettorale? Anche domattina. L'accordo sulla legge elettorale è a un passo. L'accordo sulla legge elettorale? In 2 ore. Mai vista tanta coerenza. Il sogno realtà vive. Le larghe intese, secondo lei, sapranno fare almeno la legge elettorale oppure ma no? Ma vede... Sì o no? No. Ecco, era Brunetta ieri, quindi mi pare che abbiamo una risposta abbastanza chiara. Al telefono abbiamo però il testo, naturalmente era un testo di Mattia Feltri scritto sulla stampa, pubblicato sulla stampa. C'è al telefono chi invece rischia la vita in qualche modo per avere questa legge elettorale. Roberto Giachetti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ecco, uno sciopero della fame... Da tempo per una legge che non vuole nessuno fare? Ma guardi, voi avete descritto una farsa che in realtà è più una tragedia che una certo. farsa se la guardiamo sul piano politico, perché prima per me di qualunque soluzione tecnica, e lo dicevate anche voi, c'è un problema della politica che ormai sta perdendo qualunque residuo di credibilità con la gente, con gli elettori. E questo tutti. È il punto, esattamente. E come ricordavate, ricordava in particolare Arturo Parisi, che saluto caramente anche Sighi, il tema è che 2 anni fa fu presentato un referendum che fu bocciato dalla Corte Costituzionale e tutti i partiti e tutti i rappresentanti dei partiti all'unisono e per centinaia di giorni ogni giorno tuonavano ogni mattina dicendo: adesso che la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum, la riforma la faremo in Parlamento. Certo. Continuare a sollecitare aspettative e attese in una popolazione che ha capito perfettamente che non si vuole fare. No, ma soprattutto quanto sia importante la legge elettorale, certo. anche in una sorta di degenerazione del corpo politico. E poi ogni volta che ci troviamo di fronte all'opportunità di farla girare dall'altra parte e evitare l'ostacolo, sta azzerando la credibilità della politica, Se e, lei, è lei per questo che fa lo sciopero della fame? Ovviamente per questo, e poi perché io in campagna elettorale sono andato per il mio partito a ripetere ogni giorno mai più con il Porcellum, e io non posso adesso... È un problema proprio di faccia, semplicemente di faccia. Noi tutti i giorni, Simone Spezia nel suo effetto giorno, segue il vostro turnover, diciamo la staffetta nello sciopero, e quindi questo è un po' il nostro contributo della radio alla vostra. E beh, Simone, che è molto bravo, segue questa cosa. Ma lei, per dirla, so che lei ha poco tempo, che cosa pensa che cambi? Niente. No, guardi, se io ho iniziato... Quanti chili ha perso intanto? Ma non avrò persi 7-8 al momento, sono 23 giorni. Le dico questo, io ho provato prima ovviamente utilizzando quella che è la mia attività parlamentare, quindi ho provato prima con una mozione il 29 maggio che diceva di passare per la legge provvisoria, che non sarà quella definitiva, dalla legge attuale alla legge precedente. Uno switch si faceva in 10 minuti, perché bastava semplicemente ripristinare la vecchia legge, che non era certo la cosa migliore al mondo, ma certamente restituiva intanto ai cittadini la possibilità, cioè tornare al Mattarellum. Esattamente. Questo e mi è stata bocciata, mi è stato detto che ero prepotente, che piantavo bandierine dicendo. Poi feci votare insieme ad altri colleghi l'urgenza alla Camera, sempre sulle proposte che riguardavano il Mattarellum, ma subito dopo il Senato fece la stessa cosa e scippò alla Camera. Vabbè, insomma, queste sono... Guardi, il problema è che non è un fatto puramente procedurale, perché spostare al Senato la legge elettorale, la riforma della legge elettorale, significa chiuderla in quel paradosso di cui cerco di parlare da giorni, che questo è un governo figlio di questa legge elettorale e tutti ci dicono che questa legge elettorale non si può cambiare, se no casca il governo. E quindi, e noi non usciremo mai. Circolo chiuso. Casi. C'è Buttafuoco che vuole fare una domanda, Giacchetti. Prego. Buongiorno Roberto. Ciao, come stai? Tutto bene. Allora Roberto, una cosa, alla Leopolda Matteo Renzi ha detto una cosa semplice che però si trascina una complicazione, cioè ha detto facciamo al modo dei sindaci, però lì c'è un assetto presidenziale, lì c'è solo un riferimento ad un'unica assemblea e lì quando se ne va via il sindaco se ne va via l'assemblea, ecco come la giudichi questa uscita? No, io guarda, sono d'accordo, ma Matteo è perfettamente consapevole che fare perfettamente l'equivalente della legge dei sindaci significa farla attraverso la riforma costituzionale, perché è il premierato che non c'è in questo momento in Italia. Però io pure che sono ovviamente per il maggioritario e sono perfettamente d'accordo con il professor Parisi, e tant'è che avevo chiesto il ritorno al Mattarellum, vi dico che però questo sta diventando anche l'alibi dietro il quale coprirsi per non toccare questa legge elettorale. Allora io penso che in via transitoria, sperando che poi si faccia una legge elettorale come Cristo comanda, per garantire agli italiani che non si torna più a votare col Porcellum, io sono disposto anche a quella proposta, diciamo, del professor Dalimonte, che sostanzialmente riprende il concetto della legge dei sindaci, solo che al ballottaggio non ci vanno i sindaci ma ci vanno le due coalizioni. È la miglior cosa? No, certamente, e mi auguro, io sono per il doppio turno alla francese, quindi per quanto mi riguarda la mia idea è chiara, però almeno usciamo da questo, se no noi rimarremo attaccati in questa situazione e qualora la Corte Costituzionale dovesse dichiarare incostituzionale il premio di maggioranza, noi torneremmo a un proporzionale puro, ve lo ricordate voi? Psi, pli, pri, bzi. Ma io adesso le faccio... Però non era male. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Uno che non ci crede alla possibilità di questa legge di riforma della legge elettorale e non ci crede da tanti tanti anni, fatti sentite cosa diceva nel 95, quasi 20 anni fa. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma uninominale, secca, l'inglese con doppio turno, la francese e il ballottaggio e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Professore, professor Parisi, intanto salutiamo Giacchetti che ci ha lasciato, che doveva andare in aula. Benigni naturalmente gioca, ma mica tanto. Fra i vari modelli in campo, ma quale potrebbe essere quello buono? Giacchetti prima ci ha detto qualcosa. Lei come la pensa? Adesso voglio dire, Giacchetti, che in questo momento ha preso in mano il testimone della nostra battaglia che dura da 7 anni. Dal 2006, e ha raccontato l'ultima fase di questa battaglia, ma purtroppo noi ci siamo arresi all'idea della possibilità di tornare al Mattarellum è contro tutte le nostre convinzioni, perché la nostra convinzione sarebbe stata quella di un doppio turno di collegio uninominale. Vabbè, ma perché vi siete arresi? Ci siamo arresi perché a quel punto dicemmo, nonostante, perché è una storia che dura da 24 anni. Sì, è meglio non farla tutta perché non abbiamo il tempo. 24 anni, noi nel 90 andammo con Segni a depositare in Cassazione la richiesta del primo referendum. Ecco, infatti voi oggi su Repubblica, lei e Segni, scrivete una lettera aperta il cui titolo è «La consulta non offra alibi a una nuova truffa». In due parole mi spiega cosa vuol dire? È il nostro terrore, è un dovere di coscienza che ci ha spinto a scrivere quella lettera, perché la nostra paura è che alla fine della storia si torni più indietro del punto di partenza, e per punto di partenza intendo dire il punto di partenza di 24 anni fa, perché al momento, e Calderoli lo avrebbe spiegato meglio se voi non aveste per necessità tagliuzzato il suo intervento, al momento quello che sappiamo è la strada che intraprendiamo, ma non il punto di arrivo, perché Calderoli spiega bene in quell'intervento che poi il governo, in questo caso il governo era lui, propone, ma il Parlamento dispone, cioè che in corso d'opera anche le proposte bisogna... più maggioritarie diventano proporzionali. Sì. Appunto, la nostra preoccupazione è che una volta intrapresa la strada, in questo caso con la copertura della Corte, che tutti dicono dovrebbe... Vabbè, insomma, questo lo vedremo il 3. Noi abbiamo il telefono Pierluigi Darò, professore. Pierluigi, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Una domanda veloce, sì, abbiamo il professore al telefono. Ho sentito il commento dei suoi ospiti. Io sono convinto che i politici attuali, la classe politica attuale non sarà in grado di poter risolvere il problema della legge elettorale. È quello che stiamo dicendo, infatti. Ma per un semplice motivo, come diceva il suo ospite, professor Parisi, ognuno fa gli interessi del proprio partito. Sì. Ora, la domanda? La situazione è un aggravamento della situazione economica, quando le famiglie cominceranno ad avere problemi molto hanno già cominciato. Sì, la non domanda potrebbe essere causa di questa di questo impasse politico, invece di questa la classe politica è ferma. Sì, la domanda, Pierluigi, di una insurrezione popolare. Lei dice perché? Ci sarà una soluzione popolare e a quel punto si farà la legge, va bene, abbiamo capito, una posizione estrema, però è una posizione che comincia un pochino a alleggiare, professor Parisi, è un rischio? È un rischio, ed è la nostra preoccupazione, perciò l'anno scorso, non due anni fa, di fronte alla bocciatura del referendum, noi ce ne demmo conto che era stata persa l'ultima, che era la strada finale, perché i partiti mai avrebbero fatto quello che solo i cittadini potevano fare. Certo, esattamente. Professore, ancora una domanda, ma ne ha risposto un po' Giachetti alla domanda che aveva fatto Buttafuoco. Renzi ha detto che la legge elettorale che va bene è quella dei sindaci, lei è d'accordo su questo? No, Buttafuoco ha detto perfettamente, la legge dei sindaci si presuppone l'elezione diretta del sindaco e soprattutto il potere di scioglimento del consiglio su iniziativa del sindaco, quindi diciamo nell'indicare la legge dei sindaci, il sindaco di Tara che noi proponemmo 22 anni fa, cioè, non ci faccia venire male professore, ha indicato la prospettiva che può anche trovare quella soluzione che ha indicato Giachetti e lo stesso Renzi come soluzione immediata. Professore, abbiamo Roberto da Torino, un attimo. Roberto, velocemente, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere agli ospiti per quale ragione si demonizza negli ultimi anni il proporzionale. Grazie. La domanda nasce da questo, che mi dica. No, ho capito la domanda, chiediamo al professor Parisi, che è proprio il massimo teorico del bipolarismo. Perché il primo problema del paese, quello da cui abbiamo preso le mosse, è il problema della governabilità. Il proporzionale, abbiamo visto, era da questo punto di vista il sistema perfetto per assicurare la rappresentanza, ma purtroppo ci ha regalato notoriamente dei governi instabili e debili. E quindi niente, niente stabilità. Tutta la prima fase della Repubblica. Certo, abbiamo ancora buttafuoco. Professore, sono buttafuoco. Buongiorno, un'obiezione. Il maggioritario comunque non ha garantito però la mobilitazione dei cittadini, perché in realtà né la governabilità c'è stata, ma tantomeno c'è stata una partecipazione, tant'è vero che il problema e il vulnus della politica attualmente è proprio quella di avere creato una casta di nominati e non di persone che fanno riferimento al territorio. Certo, questo è un punto fondamentale. No, professore? Sta facendo la storia, giustamente, che io condivido, degli ultimi 8 anni. Prima abbiamo avuto una fase che non è andata mai a regime concretamente, la quale effettivamente era imperfetta, noi stesso chiedemmo un perfezionamento, ma tuttavia era non è avvenuto. Ecco, Francesco dalla provincia di Caserta. Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Minoli, io sono pragmatico, vado al dunque. Grazie. Allora, il nostro Presidente della Repubblica, ogni suo appello, anche quando è stato rieletto, l'ha messa tra le cose principali da fare. Perché non li ricatta e dice, se non la fate entro 30 giorni mi dimetto? Questa è una bella domanda, ma chissà, aspetta forse il momento giusto. Professore, com'è? Dovrebbe rivolgere al Presidente. Certo, ma lì, naturalmente, ma lei è un grande analista. Stata, come ho detto, porla all'inizio. Io do l'incarico al Presidente, una volta che l'impresidente, avendo aperto il confronto con gli altri partiti, viene con una proposta. Solo quello può giustificare un governo di larghe intese, un governo che ha già verificato un'intesa. Certo. Bene, professore, io la ringrazio moltissimo, ricordo ancora il numero verde 800 24 00 24, numero SMS 349 238 6666. Dopo la pubblicità riprendiamo il nostro discorso. Mix 24. Sono l'ultimo dei bei, cosa ci posso fare? Ho morbidi capelli, il labbro sensuale. Pietrangelo, oggi questa scelta musicale prima delle bolle, perché? Oggi questa scelta musicale perché? Perché oggi o voto palese o voto segreto, si saprà, si conoscerà il destino dell'ultimo dei belli di Silvio Berlusconi, dopodiché sarà la stagione dei brutti. Di Lorenzi, brutto. E perché lui c'ha la bellezza dell'asino, la giovinezza, ma poi se ne andrà. E non credo faccia anche lui quel processo di cosmesi di Berlusconi. Facciamo la sigla delle bolle, che tocca a Mario Sechi. Allora Mario, da dove cominciamo? Ma io comincerei esattamente da questo. L'anno prossimo non si pagherà più l'IMU e nemmeno la TARES, che doveva sostituire la TARSU. Ci sarà una nuova tassa che non si chiamerà TASER, come la pistola che dà l'elettroshock, ma TRISE. Il fatto è che la TRISE, come un missile a tre stadi, contiene altre due tasse, la TARI e la TASI. Se abitate nella vostra casa, pagate tutta la TRISE, dunque sia la TARI che la TASI. Se siete un inquilino, pagate solo la TARI, ma anche una quota della TASI. Se siete il padrone di casa, pagate la TASI, ma non la TARI. Più IMU, si capisce. Ma l'IMU, raddoppiata, la pagate anche se siete in affitto su quell'appartamento dove abita vostra madre, che però pagherà la TASI, lasciando a voi la TASI che avete evitato sulla casa dove pagavate la TARSU. E invece ora, scampata la TARES e aggirata la TASER, pagate solo la TARI, ma non l'IMU. Adesso ripetete. E allora questo è il nostro tormentone che ci accompagnerà fino all'approvazione della legge di stabilità, Mario. L'abbiamo messo in testa alle bolle perché, Tom, guarda un po', l'avevamo pure un po' previsto, sulle tasse sulla casa non ci siamo . Si faranno delle variazioni in Parlamento. La stima è che ci siano, tra l'altro anche qui avevamo anticipato in questa trasmissione, 10 miliardi in più di tasse rispetto all'IMU già apposta dal governo Monti. Quindi insomma c'è un rischio di ipertassazione degli immobili molto concreto. Ma il rischio di ipertassazione, se ho capito qualcosa, anche da Brunetta ieri qua, significa crisi di governo. Ah, yes. Non ci sono dubbi su questo. Quindi diciamo, se devono è vero evitarlo. Quello che dici, sì. Difficile immaginare qualcosa di diverso dalla crisi. 800 24 00 24 349 l'SMS 349 238 6666. Seconda cosa interessante che io sto cominciando a seguire con più attenzione è il congresso del PD, lo chiamo io, è molto divertente perché oggi tanto si riunisce al Nazareno, alla loro sede, la commissione nazionale che deve valutare una pioggia di ricorsi delle realtà locali, sai, c'è un problema di ipertesseramento in questo caso, tra l'altro non è nuovo. I falsi. Sì, falsi. Perché l'unico congresso vero è quello di Crisafulli. Guarda, in Sicilia, guarda che pif ti fa subito una gag. L'unico congresso vero è quello, poi per il resto truppe cammellate. No, e la cosa interessante è che mentre Renzi fa la Leopolda un po' in tutta Italia, la fa bene, ha successo eccetera, però i candidati di Cooper lo stanno vincendo i congressi locali, insomma il cosiddetto apparato se funziona sta funzionando piuttosto bene, tant'è che stamattina leggevo un voi pezzo. Voi state insinuando. Che voi, io non insinuo niente. Stai, guarda, insinuando che leggo da che Europa. Renzi vinca solo sui giornali. Guarda, leggo da Europa del mio amico Menichini che dice: i timori sono riguardano la gestione del partito nei prossimi mesi e anni. Ad esempio a Roma, abbiamo il caso romano interessantissimo, dove Lionello Cosentino, vicino a Goffredo Bettini, supera il 40% e potrebbe andare al ballottaggio contro Tommaso Giuntella, sì. Area Cooperlo. Sì, però cioè, veramente stiamo conto, entrando no? in qualcosa di difficilissimo da seguire. No, il partito è là. No, perché cioè, sennò poi ci scrivono che siamo prepotenti, che dobbiamo andare in pensione noi? Senza scrupoli e che sono meglio i giovani che mirano il più bravo. Un signore che naturalmente non si firma, che ci scrive questo sms al quale io dico che largo ai giovani, l'ho sempre fatto, poi per adesso sono qui, sono tutti giovani qui intorno a me, noi siamo abbastanza giovani ancora. Scusa Mario, tu sei solitamente molto informato, ma la Boschi, Maria Elena Boschi, è alleata di Crisafulli oppure contro? Non lo so, io su questo, sulla geografia interna devo ancora documentarmi. Ma chi è Maria Elena Boschi? Io non lo so. Quel straordinario parlamentare che ha affiancato Renzi alla Leopolda. Sì, molto carina, molto intelligente, molto sveglia. È stata protagonista ieri non a Piazza Pulita. Non fare dell'ironia, butta fuoco, fai da bravo. Andiamo avanti con le bolle perché io non vi seguo, non riesco a capire il vostro discorso troppo interno. Cose serie, fatti vostri. Che non hai visto la foto. No, perché lui è abituato a leggere, essendo vecchio, come dice naturalmente, qualche ascoltatore, quindi non guarda più le immagini. No, niente, io non me ne intendo di immagini, infatti non ho mai fatto, non sono neanche analogico, sono pre-cinematografico. No, segnalo che comincia da due giorni dalla Federal Reserve, si riunisce diciamo il Comitato per la Politica Monetaria, è importante capire se continua la politica di stimoli e di espansione, diciamo così. La storia degli spioni sta diventando bellissima, sembra una versione raffazzonata di un romanzo di Fleming, manca che venga fuori James Bond e poi ci siamo, la storia dei gadget di Putin che li regalava ai capi di Stato per spiarli meglio è molto divertente. Mario, io vorrei sentire un salamino. Salamino, vabbè. Allora, ecco, un salamino che sia un salamino prezioso, vezzoso, garbato, perché c'è necessità di poesia, a maggior ragione il modo migliore per dare un calcio alla crisi, il modo migliore per dare un calcio alla crisi è accostarsi alla bellezza, alla poesia, all'arte, agli spettacoli. E saluto quindi con grande allegria l'inizio delle riprese che Mario Martone sta facendo del suo film su Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi, che viene raccontato da Martone, che già ha creato un allestimento straordinario. Tipo? Le operette morali a teatro, uno spettacolo unico, bellissimo, al Teatro Argentina, con la gente che proprio impazziva. Teatro Argentina di Roma, perché... Siamo ascoltati anche fuori Roma. E oggi, vabbè, ma poi è andato in tournée, ovviamente, grande allestimento, un grande spettacolo. Oggi una bellissima intervista di Curzio Maltese su Repubblica. Dice che? E racconta appunto... La un bellezza. Cast straordinario, c'è il Elio Germano nel ruolo del meraviglioso Gobbo. Vabbè, adesso che hai fatto questo fantastico spottone, mi affida la poesia in un contrasto che è quello di Fortunello di Ettore Petrolini. Sono un parafulmine, sono uno senza nei, sono il 26, sono un uomo eccezionale, sono un figlio naturale, sono un uomo della riserva, sono il figlio della serva, sono un uomo senza boria, sono il caffè con la cicoria, sono un uomo cinegetico, sono un colpo apopletico, sono uno sapalese, sono un ispirato. Mario! Qua i Fortunelli sono altri, sono quelli che hanno investito in Apple qualche anno fa. Dicevamo ieri che sarebbero arrivati dei risultati straordinari, eccoli: 7,5 miliardi di profitti, 37,5 miliardi di dollari di fatturato. Hanno venduto quasi 34 milioni di iPhone, ecco, nel trimestre. Ti segnalo, per chiudere, l'ultima cosa che vorrei festa pagana, cioè Halloween. Nel Regno Unito è diventata la terza festa per volume d'affari dopo il Natale e la Pasqua, e così anche da noi. Ecco, io intanto ringrazio Sara Tardelli che ha curato la notizia in 3D, ma per chiudere vorrei tornare al tema iniziale, perché è un tema davvero incredibile. Dal 53 che si tenta di dare stabilità, quindi la possibilità di governare con la legge elettorale, ci ha provato il governo De Gasperi con quella che era la legge truffa, il professor Perfetti che ha scritto molto a proposito della legge truffa. Ecco, davvero era una truffa, professore? Ma io non direi che fosse una truffa, l'espressione legge truffa fu, come lei ricorda, tirata fuori da Calamandrei. Quando venne proposta la legge truffa si era in un momento particolare, perché si usciva dall'esperienza del fascismo, c'era stato semplicemente una legislatura repubblicana, e quindi già parlare di sistemi maggioritari e di leggi che avrebbero consentito di ottenere meno voti e più parlamentari, come disse Maccari in una, sì, in una battuta famosa, certamente era un qualcosa che urtava la sensibilità. Certo. In realtà si trattava di una legge maggioritaria che assegnava il 65% dei seggi alla lista o alle liste collegate che avessero ottenuto il 50% più uno dei voti validi. Mm. Ecco, il problema è sorto sul fatto dell'entità del premio di maggioranza. Nella prima formulazione si prevedeva un premio ancora superiore, e cioè un premio che consentisse alla coalizione di governare tranquillamente. Non solo di governare, ma di avere un numero di parlamentari pari ai 2/3 del Parlamento, cioè sostanzialmente. Vabbè, un semiregime. Sostanzialmente il numero dei parlamentari sufficiente. E invece poi nella formulazione per approvare le leggi costituzionali, sì, e certo, quindi questo sarebbe stato veramente, certo, un vulnus. A seguito della discussione poi si abbassò leggermente il quorum proprio, ecco, per evitare. Ecco, ma quella legge abbassata nel quorum con il premio di maggioranza diverso oggi darebbe stabilità al governo, secondo lei, e sarebbe auspicabile? Io direi certamente di sì, perché il problema è quello di avere una maggioranza forte e soprattutto coesa. Grazie professore, grazie mille del suo intervento. Niente. Ecco, abbiamo sentito anche l'opinione del professor Perfetti sulla legge truffa. Dopo la viabilità parliamo di televisione, del mercato della televisione in tutto il mondo, come evolve, per capire come gira l'economia dei media. Mix 24. Siamo di nuovo qui a Mix 24 per parlare questa volta di televisione insieme a Daniele Doglio, professore di economia dei media all'Università Cattolica di Milano. Ricordo a tutti, se qualcuno volesse intervenire, il nostro numero 800 24 00 24. Numero di sms 349-238-6666, abbiamo tantissimi sms ancora sulla questione della legge elettorale, ci torneremo sicuramente perché vediamo che interessa moltissimo il nostro pubblico. E intanto parliamo di televisione e economia dei media. Professore, quali sono le novità sul mercato televisivo? Allora, questa sa che noi cerchiamo ogni settimana di trovare qualcosa di effettivamente nuovo o significativo. Esatto. Questa settimana sono due parole, la parola Infinity e la parola Razer, due espressioni inglesi che fanno venire in mente un flusso potenzialmente infinito, qualcosa che non finisce mai, e che designano però due nuovi servizi italiani che Mediaset e Sky vogliono lanciare tra fine anno e inizio anno nuovo. E servizi per fare cosa? Di migliaia di film e serie televisive. È molto interessante perché dietro a questo trasferimento della competizione tra Mediaset Premium e Sky Italia in un nuovo segmento della televisione via internet, l'Italia si avvicina ai grandi paesi sviluppati che questo tipo di mercato hanno già cominciato a costruirlo da qualche tempo. In realtà la sensazione è che più che un confronto tra Mediaset e Sky si tratti di una mossa difensiva, preventiva, per anticipare in qualche modo il possibile arrivo anche in Italia di un operatore americano che si chiama Netflix, che ha inventato e portato al successo planetario questo nuovo modello di consumo televisivo che nasce da un mix fra il videonoleggio e la TV a pagamento in abbonamento, con però la fondamentale novità tecnologica che si tratta di una distribuzione in streaming, cioè i contenuti ordinati vengono diffusi via internet, si possono vedere su tutte le piattaforme connesse, ma non si possono scaricare sul dispositivo dell'utente. Ecco, ma professore, allora i grandi produttori non passeranno più dai canali televisivi tradizionali, è questo che sta dicendo? È una delle possibilità, infatti io se fossi Rai 2, Rete 4, Italia 1, La 7 e anche molte reti Sky, qualche preoccupazione ce l'avrei. Le faccio un esempio: un grande marchio della produzione di qualità di fiction, HBO, ha già lanciato un suo servizio che si chiama HBO Go, che permette di ricevere anche fuori dagli Stati Uniti la sua offerta. Ecco, ma professore, scusi, ma non è una prospettiva molto, molto di lungo periodo? Le posso dare alcuni numeri, perché può sembrare uno scenario, ma in realtà il cambiamento è molto veloce. Netflix è nato una decina d'anni fa, in meno di 3 anni è passato da 0 a 40 milioni di abbonati, 31 negli Stati Uniti e 9 in America Latina e in Europa. Quest'anno sta crescendo al tasso di 1 milione di abbonati in più ogni trimestre, anzi 1,3. Quindi è esponenziale la sua crescita. Ecco, e se le dico i tassi, cioè gli obiettivi che si è dato, nei 3 anni prossimi pensa di arrivare a 70 milioni di abbonati negli Stati Uniti e a 200 milioni nel mondo. Quindi andiamo verso un consumo televisivo sempre più a pagamento, se ho capito bene. Andiamo a un consumo televisivo dove, quando, come e dove consumare la televisione lo decide l'utente, e dove sarà tendenzialmente tutto a pagamento. Quindi è la fine dei palinsesti, come dire, che impongono un'offerta. La fine, quando finirà, perché diciamo, mi pare che comunque, per essere concreti e realisti, negli Stati Uniti, dove tutto questo accade, la televisione generalista ha ancora una bella quota di mercato. Sì, però se lei va a vedere i numeri, è una quota di mercato che è scesa del 30% negli ultimi 10 anni. Sì, certo. D'altra parte la televisione è quello, è capacità di organizzare un'offerta multigenere in un dato di arco di tempo attraverso il famoso palinsesto fatto. Ognuno si fa il suo, però professore, una domanda banale. Tutte queste soluzioni tecnologiche di consumo, perché di questo si tratta, che la persona organizza le sue cose, cioè sempre più tecnologia, a fronte di questo aumento esponenziale di tecnologia, i contenuti alla fine sono sempre quelli che girano. Non c'è proporzione. Beh, però qui è un dato interessante, perché i contenuti, è vero, sono sempre quelli che girano. Però, per esempio, per citare sempre questo, diciamo, nuovo protagonista che è il leader di mercato, oltre ad aver fatto accordi molto importanti per acquisire i diritti di diffusione di migliaia e migliaia di film. Certo, vabbè, quei film che abbiamo già visto in tanti altri modi, meno quelli che si preparano. Per esempio, le faccio un esempio importante, Netflix dall'anno scorso ha cominciato a produrre in proprio. Finalmente. È un fenomeno interessante perché non è un soggetto tradizionalmente televisivo. No, certo, ma alla fine cominciano tutti a produrre in proprio. Guardi, professore, la ringrazio perché siamo in chiusura, devo dare un'ultimissima notizia a Mario. È una conferma di quello che abbiamo detto, il presidente designato della Corte dei Conti, Raffaele Scrittieri, in audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato, ha detto che si rischiano ulteriori aumenti impositivi sulla casa. E quindi siamo aggiornatissimi, dopo il giornale radio torna Mix 24 con la storia. Italia, curata da Marina Miloni. Oggi vi raccontiamo la storia di Adriano e Olivetti, la sua vita, il suo lavoro, i suoi ideali. A seguire un'intervista molto, molto interessante da non perdere con l'ingegner Carlo De Benedetti. Grazie e a domani.